Thank you. telefoniamo domani per giovedì. Niente, saldate 50 cm l'una all'altro, e poi dice ci parla di spezzone da 1 metro, da 2,50, oppure se vuoi fare un castello singolo da 1,80 con le sue pedane, e poi un assemblaggio, capito? È tutta una cosa di assemblaggio. No, è più molto più sbrigativo degli altri pompieri, diciamo, di quelli che tu vedi normalmente all'HU, capito? Sono molto più facili da montare, facili da assemblare, diciamo, capito? E sono anche più sicuri, perché sono facili da smontare e hanno una sicurezza superiore a quelli ai classici elementi che tu vedi, capito? Siamo in pugno, no, quando se facciano fare almeno sono da pace questi due giorni che stiamo facendo i film. Le cose l'ho fatto con Benassi quando abbiamo fatto altri assistenti, però è proprio vero, molte volte nella carta ne sanno più di una più del diavolo, però sono del parere che anche la pratica conta parecchio. Questa è bravissima, la carta del segno in mano non c'è più nessuno. Modifica, fa, ti dice quanto materiale ci vuole lì, che il materiale è pronto, non abbiamo mai buttato di niente, nulla, proprio trovando un contatto, comunque trova giusto, non manca niente, anche perché è un ragazzo d'ufficio, quindi sta ore e ore attaccato al telegrafo, al computer, rilevando misure, facendo, è chiaro che non si può dire niente, però quando siamo operativi, io lavoro molto con lui in coppia, siamo quasi sempre assieme, soprattutto all'inizio abbiamo fatto, diciamo, tutto assieme, massima collaborazione, a volte non avevo permesso perché infatti a volte non pubblico, ma sei sicuro che cosa c'è? Sì, è andata a Bologna a primo tempo, secondo tempo magari meritava qualcosina di più, ma cacchio, era una vergogna, sembrava una squadra di chi non aveva mai giocato a pallone, cioè hanno preso un gol, rimasto fermo il giocatore, cioè intanto questo pulito qui ti ha segnato, c'era cioè, il portiere intero, un altro a Piatti oggi, mi hai visto a Piatti, Salvatore? Sì, ma se ti dicevano che era sembravano le comiche. No, ma aspetta, a Cagliari dovrebbe rientrare un po' di gente, poi il biglietto non vale solo per vedere Ronaldinho, vale solo quello lì. A proposito, mi devi far vedere quella questione, quanti siete? Avete già il numero, ce l'avete? Beh, a mia figlia siamo sicuri, adesso non so se viene mia moglie, ma lì mi ti detto, se lui vieni ti rimanete fuori, ma aspettate in macchina. Sì, esatto. Dai, ma mi devi quei documenti che mi servono, Robè. Il mio mia figlia già ce l'abbiamo portata in mano, mia moglie non lo so, ma preferisco mai non fare niente, con l'altra piccolina non è vicino alla rega allo stadio, quella meglio tenerla rinchiusa in qualche gabbietta, se non sa fare già la grande, ha detto, no, non la portare, non la portare, se no si bisticciano, guarda, sono diventato tutti e due, poi quella piccolina è mezzo gelosetto della grande, era questa già convinta che andavamo io lì da sole, adesso non lo so, adesso domani ti dico cosa ha deciso mia moglie, dai, vediamo.